Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti i radioascoltatori e buona Pasqua anche se in anticipo. Bene, oggi partiremo da un detto che dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Quindi faremo un giro dell'Italia, dove poter andare, ma non solo dove poter mangiare, perché credo che ormai il rapporto tra cibo, cultura, cibo e turismo sia molto legato. Quindi cercheremo di indirizzare, di darvi così degli indirizzi, di darvi, se vogliamo, dei suggerimenti in giro per l'Italia dove c'è qualcosa da vedere e ovviamente anche qualcosa da mangiare. Bene, iniziamo questo giro dalla Sicilia. Dalla Sicilia iniziamo addirittura da un posto molto noto, molto famoso per i suoi mandorli in fiore, per la sua festa dei mandorli, ma anche per i suoi giacimenti archeologici e culturali. Bene, cominciamo da Agrigento. E la prima visita dove la facciamo? Non la voglio fare in un ristorante, la voglio fare in un giardino della Colimbetra o della Colimbetra. Ora il direttore Giuseppe Lopilato ci dirà esattamente la pronuncia. Buongiorno Lopilato. Buongiorno, è Colimbetra. Allora, comunque, trattandosi di un nome antico, sa benissimo che ci sono tante teorie, quindi vanno bene tutte. Bene, allora, Lopilato, sì, ci introduca in questo giardino, in questo bellissimo giardino, che è poi nella Valle dei Templi, quindi bisognerebbe spendere anche due parole sulla Valle dei Templi. Ma noi entriamo nel giardino, prima di tutto. Ci racconti, cosa possiamo vedere nel giardino? Guarda, noi siamo nel cuore della Valle dei Templi, esattamente in una piccola valle che è situata tra il Tempio di Dioscuro e il Tempio di Vulcano, quindi proprio siamo lì, insomma. Il giardino è un agrumeto antichissimo, si chiama così perché è proprio per la bellezza di questi luoghi, comunemente i nostri contadini hanno denominato questi campi coltivati con questo frutto meraviglioso il nome di giardino, quindi luogo di bellezza, di ricchezza, di magnificenza. Nessun contadino direbbe mai è un agrumeto, no, è un giardino, come si dice da noi. La cosa bella è che è antichissimo, che vi si coltivano varietà di arancio ormai scomparse. Una collega le ha studiate per conto dell'università e ne ha trovate ben 12. Sta cercando di capire dal punto di vista scientifico la valenza di queste antiche varietà, di questo patrimonio genetico, ma ecco, per capire la ricchezza, diciamo, di questo patrimonio. Cosa ne facciamo di queste arance? Beh, guardi, noi abbiamo iniziato ad offrire ai nostri visitatori, quindi offriamo dei sapori antichi che abbiamo recuperato e questo fa parte, diciamo, della visita e anche dell'approccio, perché noi non siamo un museo, ecco, siamo un pezzo di campagna antica che abbiamo recuperato come fondazione, come fondo per l'ambiente italiano, esattamente 10 anni fa di questi tempi c'è il cantiere di recupero. E quindi è un luogo da vedere, ma anche un luogo da gustare. Guardi, i musei all'aperto secondo me sono la cosa più meravigliosa, quindi questo è un vero museo di cultura materiale all'aperto, devo dire straordinario. Un'ultima cosa volevo chiedere: il giorno di Pasqua e del lunedì di Pasqua sono possibili le visite? Sì, noi siamo aperti il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì di Pasqua. E noi organizziamo una iniziativa che abbiamo recuperato dalla memoria degli antichi agrigentini, che si chiama La Scialata. Sostanzialmente cosa succedeva fino agli anni 60, prima che arrivasse la motorizzazione di massa, la modernità, che per Pasquetta tutte le famiglie si prendevano il panaro, si dice qui, e una sportina, voglio dire, queste cose qui, ci mettevano le cose da mangiare e a piedi se ne andavano per le campagne della Valle dei Templi a divertirsi, a scialare, ecco. Era una invasione gioiosissima praticamente, che purtroppo poi la modernità ha cancellato. Noi la riprendiamo e chi vuole partecipare può mettersi in contatto con noi. Proponiamo... Quando dice contatto con noi, cosa dice? Sul nostro sito internet www.fondoambiente.it oppure al giardino della Colimbetra al 335 12 29 042. Sostanzialmente noi facciamo un percorso per le antiche trazzere, andando a vedere alcuni siti archeologici non minori, ma ahimè periferici, la Porta Sesta, l'Ipogeo Giacatello, Poggio Meta, dove è possibile vedere tutta la sua spettacolarità, la Valle dei Templi, un poggetto che domina la Valle dei Templi, sono luoghi non frequentati, ecco, è possibile quindi fare questa esperienza meravigliosa. Bene. è possibile immergersi nella campagna di Mando, Bruvivi e infine quella degli agrumi, agrumi che per ora sono in fiore, per cui c'è un profumo straordinario lì alla Corimpetra, e poi noi abbiamo la possibilità anche di mangiare. Bene. Di mangiare le cose che questa campagna antica ha sempre prodotto, quindi noi non facciamo un pranzo così ordinario, ma il pane con l'olio, il pane con il pomodoro. Uno spuntino. Esatto, la caponata, sì. Le cose, queste cose qui, ecco, il sapore della campagna antica, ecco, questa è la nostra idea. Grazie a Giuseppe Lopilato, ma il pranzo o la cena vera la facciamo al Deor di Agrigento, al Baglio della Luna. Buongiorno a Ida Siracusa, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, per Pasqua e Pasquetta abbiamo un menù particolare, qualche piatto particolare siciliano? La nostra carta è sempre attenta alla tradizione, per cui abbiamo, non so, come antipasti un tortino di melanzane con crocchetta di pecorino primo sale al pistacchio e cuoresi di pomodorini, o una caponata però rivisitata, quindi una caponata di melanzane con polipetti, cozze e vongole veraci. E come dessert abbiamo qualcosa di particolare? Per esempio un parfait di pistacchi che viene adagiato su un cestino di croccante di pistacchi, guarnito con una salsa al cioccolato. Quindi molto particolare, molto buono. Il suo locale è aperto sia il giorno di Pasqua che il giorno di Pasquetta. C'è qualche altro piatto che così si ricorda interessante? Anche parlavate poco fa di arance, quindi il soufflé ghiacciato di arance con un ragù di frutta caramellata. Molto buono, utilizziamo i nostri prodotti sempre, quindi... Bene. Altro, per un secondo, c'è un tonno grigliato su couscous aromatico alla menta e fonduta di peperoni, sempre prodotti nostri, un po' rivisitati, però... Bene, mi fa venire fame poi quella bellissima terrazza che guarda i templi del suo locale. Grazie a Ida Siracusa del Deor di Agrigento, Baglio della Luna. Bene, credo appunto che da questo locale si possa veramente vedere di sera uno spettacolo straordinario. E da Agrigento andiamo a Mantova. Mantova notoriamente è una città dove le mostre si susseguono di grandissimo livello, e per gli appassionati in questo periodo abbiamo gli arazzi dei Gonzaga nel Rinascimento, da Mantegna a Raffaello e Giulio Romano, quindi sicuramente gli arazzi attirano molto, hanno un pubblico molto particolare di appassionati, quindi chi volesse andare a Mantova sicuramente vede una grandissima mostra e appunto trova veramente pan per i denti appunto negli arazzi, ma la nostra bocca, i nostri denti però trovano anche grande conforto andando in un grande ristorante, tradizionale ma veramente che ha mantenuto nel tempo una qualità davvero straordinaria. Andiamo al Cigno, Trattoria dei Martini, andiamo dal patron Tano Martini. Buongiorno Tano. Buongiorno dottore, buongiorno. Allora, per Pasqua e per diciamo Pasquetta cosa offriamo? Cosa c'è? Qualcosa di particolare? La tradizione per noi è una cosa importante. Il Pasqua è soprattutto una festa, un'esplosione di cose della campagna. Questa zona agricola era la scusa per assaggiare il salame fatto nell'inverno, novembre-dicembre, l'affettato con salame e la pancetta. Nelle case invece di un certo tipo, nelle case diciamo opulenti della campagna, si faceva e si fa tuttora un patè di carne d'anatra. Allora diciamo la cucina del popolare, la cucina invece un po' più ricercata, e poi dopo l'agnolotto di carne in brodo fatto col brodo, con i tre tagli, cioè la gallina, il manzo e un po' di maiale, un brodo che viene bollito molto, non fatto in fretta ma fatto una bollitura di 5-6 ore, e quello che c'è dentro poi si butta tutto via. Invece il bollito viene fatto in maniera diversa. E poi si usano gli animali da cortile. L'animale da cortile è appunto che le massaie con il faraone e il coniglio, e poi dopo non poteva mancare l'agnello, perché l'agnello anche fa parte della tradizione di Pasqua anche nel mantovano. L'agnello che viene fatto in maniera molto semplice, con i classici profumi di aglio, prezzemolo, salvia, le cose semplicissime, non si usano mai nelle campagne degli aromi che sono diversi da queste cose qui. E per dessert cosa offrono? Nelle case si facevano o un bussolano, qualcosa che potesse assomigliare alla colomba, sempre cose da forno, molto semplice, oppure una cosa più complicata, perché era sempre sempre difficile farla venire, la torta margherita, che una volta veniva cotta sotto la cenere, adesso si fa invece normalmente sui fornelli. Bene, grazie a Tano Martini. Grazie, tanti auguri, dottore. Grazie al Cigno, Trattoria dei Martini e a Mantova. E ora passiamo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, a cibo vagare per l'Italia, per la Pasqua e la Pasquetta, ma soprattutto anche abbinando al cibo, alla gastronomia, qualcosa di arte, di artistico da poter vedere, perché questo è importante. È importante perché appunto ci sono queste due feste, chi va in giro fa chilometri, molte volte appunto è appassionato di cibo, ma se c'è qualcosa da vedere di importante, di artistico, di culturale, perché no? E viceversa, anche chi vive di cultura sicuramente ha bisogno di mangiare, ma non dimentichiamo soprattutto che il cibo è cultura, cibo è cultura materiale, quindi non sminuiamo i prodotti, non sminuiamo la cucina, non sminuiamo l'arte di chi produce. Bene, dove andiamo ora? Andiamo a Gallarate e qui c'è una mostra importante per gli appassionati di un pittore così, che è sicuramente molto noto. Andiamo a vedere un omaggio a Modigliani, il mistico profano. Ebbene, in questo museo Maga, appunto di Gallarate, ci sono 40 tra dipinti e disegni che arrivano da tutte, diciamo, raccolte pubbliche e private. Poi ci sono anche dei documenti, sono scritti e materiali di studio originali, quindi sicuramente è un posto interessante da frequentare, anche perché l'allestimento delle mostre è dovuto a uno scenografo che ha avuto recentemente un grande tributo, è Maurizio Sabatini, autore dei Sette di Bahia di Giuseppe Tornatore. Ecco, allora, una volta però andati a Gallarate, aver visto questa mostra, viene il problema: dove andare a mangiare? Dove andare a mangiare e dove vi portiamo? Vi portiamo a Olgiate Olona, in provincia di Varese, e andiamo dal titolare del ristorante Marina. Buongiorno a Pino Possoni. Buongiorno, dottore. Diciamo subito che non si chiama Marina il ristorante, perché tutti potrebbero pensare, sì, ma come, a Olgiate Olona c'è il porto. No, non c'è il porto. Marina è l'acronimo delle tre donne che sono in cucina. È così, Possoni? Sì, sono le mie tre sorelle. E come Marisa, si chiamano? Marisa, Rita e Anna è un acronimo che comunque ci ha portato fortuna. Beh. Perché nel tempo, insomma, abbiamo proposto il pesce e questo ha caratterizzato un po' i nostri anni, il nostro menù. Ecco, ma è nato prima il menù di pesce o il nome? No, è nato prima l'acronimo, perché era un bar Trattoria Marina nel 73, pensi un po', per cui viviamo da 37 anni con questo lavoro. Senta, Pino, ma come si spiega a Gallarate, a Olgiate Olona, un ristorante di pesce? Ho detto Gallarate perché mi ricordo che ha aperto una pescheria mitico Gattuso, quindi il nostro mitico Gattuso. Sì. Come mai Olgiate Olona un ristorante di pesce? Ma guardi, è nato, diciamo, fortunatamente e casualmente, e nasce dalla voglia di fare qualcosa che non era comune negli altri ristoranti, perché lei sa che in quegli anni, parlo del 73, i ristoranti si caratterizzavano soprattutto come messe aziendali, pochi erano quelli che vantavano un percorso personale di qualità, per cui nasce proprio come un ristorante che serviva proprio nel vero senso della parola, a ristorare chi lavorava in queste zone, che è una zona molto, era una zona ed è comunque una zona molto ricca di aziende. Ecco. Poi il caratterizzare un menù diverso dal solito e lì abbiamo chiuso nell'80, abbiamo chiuso a mezzogiorno per poter offrire alla sera delle cose particolari. Ci siamo orientati sul pesce. Ecco, Pino, diciamo una cosa: il giorno di Pasqua e per la Pasquetta abbiamo qualcosa di particolare, oppure alla vigilia sicuramente si mangerà pesce, immagino. Sì, si mangia pesce. Qui questa settimana è una settimana dove il pesce la fa comunque, ecco, sempre da padrone. A Pasqua e Pasquetta fate un menù particolare? Sì, sempre orientando sul pesce comunque, privilegiamo comunque dei piatti di crudo come capesante, gamberi rossi, noi abbiamo arrivi giornalieri dalla Sicilia anche per cui riusciamo ad avere prodotti di grande qualità e caratterizziamo anche il menù di Pasqua e di Pasquetta sul pesce, senza comunque tralasciare alcuni piatti di tradizione perché il capretto pasquale lo facciamo comunque. Per cui un'alternativa o un'alternanza a quello che può essere un discorso di pesce. Quindi ecco, insomma, il capretto non manca questa tradizione. Manca quello, senta, ma di dessert fate qualcosa di particolare? Sì, ci orientiamo su delle piccole colombine farcite di crema pasticcera, di sfoglia, con la crema pasticcera che facciamo, che proponiamo come dessert quasi obbligatorio. Cioè se, non è un'imposizione, è una variante, è una proposta che abbiamo comunque in carta quotidianamente e comunque rimane una proposta fatta di, diciamo, di un segno pasquale che rimane gradevole. Certo, questa sfoglia viene prodotta da noi ed è una cosa molto molto buona. Bene, io la ringrazio. Pino Possoni, ristorante Marina di Olgiate Luna, quindi dopo la visita a Modigliani, a Gallarate, al Museo Maga, ecco, questo è un ristorante che noi vi consigliamo, ma continuiamo questo viaggio in giro per l'Italia. Abbiamo parlato di pesce, abbiamo parlato di menù appunto molto particolare con delle specialità ittiche e beh, a questo punto io vi porto in un altro luogo, un luogo deputato al pesce, ma qualcosa di particolare. Vi porto a Cetara, Cetara nota, notissima, famosa per le alici, nonché per la colatura di alici, che è unica in questo posto, poi tutte le altre sono imitazioni, ma anche si trovano in giro veramente delle brutture di colatura di alici. La vera colatura di alici si trova a Cetara, ma anche raramente, raramente. Buongiorno a Gennaro. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a te Davide. Ristorante Acqua Pazza di Cetara, è vero? La colatura è una cosa... È vero, ci sono delle pessime imitazioni, la colatura che prepariamo noi secondo disciplinari slow food è quella ancora fatta nei tirsigni di legno, ossia in quei contenitori di legno dove i monaci benedettini prima, una volta dismesso il vino, ne facevano appunto da tirsigni un terzo di ogni botte. Venivano messo sotto sale, vengono messo ancora tuttora sotto sale, un sale ovviamente marino che lasciamo maturare al sole, seccare al sole e poi asciutto appunto e poi con queste alici fantastiche del Golfo di Salerno che sì. In questo periodo iniziamo a salare, poi ne viene fuori la famosa colatura, ma veramente poca. Ecco Gennaro, tu hai nominato Salerno, poi dopo quando abbiamo finito la nostra chiacchierata sul tuo menù parleremo appunto di Salerno, del castello di Arechi, perché è lì che vi voglio portare poi, cari radioascoltatori, dopo aver sentito Gennaro, ma appunto andiamo a Salerno e poi torneremo da Gennaro a mangiare. Allora Gennaro, sì. Voglio sapere, per Pasqua e Pasquetta c'è un menù particolare? Allora, Pasqua e Pasquetta, ovviamente in Costiera Amalfitana noi abbiamo avuto un'influenza araba per cui non ci siamo fatti mancare un po' di cose, partendo un po' da quello che è il classico dell'agnello e capretto come carni, ovviamente noi siamo una zona di pesce per cui privilegiamo quello che è il pesce, ma in questo momento, in questo periodo il casatiello per esempio o il tortano, che si differenzia dal casatiello, si differenzia dal tortano nell'impasto, in questa pizza rustica, solo che ci vanno le uova soda sopra a croce, quindi come simbolo pasquale. Poi si passa ovviamente alle grosse frittate del cipollotto bianco di Nocera, ai carciofi arrostiti, qui in provincia di Salerno abbiamo il carciofo, il tondo di Pestum, prodotto IGP straordinario. E quindi è tipico vedere queste carciofiere in questi vicoli per tutte le strade, sembrano tutti indiani, tutto questo fumo che va al cielo, è veramente straordinario, condito con del sale, dell'olio, dell'aglio, del pepe oppure un po' più ricco con la pancetta. Poi si varia dalla minestra maritata, questo è quello che noi prepariamo nel periodo tra Pasqua e Pasquetta. Oppure ancora la pizza alla frittata di maccheroni. Non mi dire che manca la pastiera però. La pastiera mai, non potrebbe mai mancare. Ma c'è ancora un altro dolce straordinario, oltre alla pastiera che è il nostro classico, il finale. Cioè la pizza di spaghetti col cioccolato, che da noi è un cult per questo periodo. Per cui è veramente di una semplicità unica. Si lessono gli spaghetti, questa va fatta qualche giorno prima però. Con tutti gli scarti, gli avanzi, si faceva una volta di cioccolata che rimaneva sia fondente che in polvere, le percentuali sono, voglio dire, a gusto, più zucchero e latte si mette dentro, più verrà dolce, e si lascia riposare con la cannella, con un misto di chiodi di garofano, cannella, anche del pepe leggermente per speziarla un po', si lascia riposare tutta la notte in questo sugo, una volta resi gli spaghetti con lo zucchero, e poi la mattina successiva si lascia ammorbidire lentamente nel forno. Questo è un dolce che poi si mantiene per diversi giorni e si può portare in giro per i fuoriporto oppure per la Pasquetta. Ecco. Mi fai venire fame, Gennaro, mi fai venire fame. Grazie. Prego. Grazie a Gennaro del ristorante Acqua Pazza di Cetara. Bene, abbiamo parlato appunto di Cetara, ma prima bisogna andare al castello medievale di Salerno, dedicato al principe longobardo Arechi II, che propone il tradizionale evento di Pasquetta con un programma di visite e addirittura con un pranzo tipico dal punto di vista storico in questo castello. Quindi, signori, credo che una delle tappe importanti sia appunto nel salernitano. Bene, ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Di nuovo buona Pasqua, anche se in anticipo, cari radioascoltatori e cari gastronauti. Ebbene, stiamo facendo un viaggio dell'Italia tra arte, cultura e cibo, andando a toccare un po', diciamo, gli eventi che sono in cartellone in questo momento e che voi potete visitare domani, il giorno di Pasqua e per la Pasquetta, quindi sicuramente un weekend di combinando in questo modo sia la gola che con la vista, magari in qualche caso anche con l'udito, che credo che siano delle combinazioni importanti e molto spesso fatte assieme rendono ancora di più sicuramente il gusto dei viaggi. Bene, siamo partiti da Agrigento e poi siamo andati a Gallarate, poi ancora siamo andati a Cetara e poi a Mantova. Bene, continuiamo questo viaggio, approdiamo a Parma perché Parma sicuramente è una città molto golosa, non la scopriamo da oggi, ma anche una città molto colta dove spesso ci sono delle mostre molto importanti. E in questo momento c'è un evento particolare che si chiama 900. Devo dire che è scritto in maniera anche originale, il 9 in lettere e il 100 in numeri. Cos'è questa mostra? Questa mostra è una collezione del CSAC, Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell'Università di Parma, creato da un grande critico, Arturo Carlo Quintavalle e Gloria Bianchino. Ebbene, cosa contiene questo archivio? È possibile trovare in questo archivio tutto il 900 nelle più svariate discipline, dall'arte alla fotografia, dall'architettura alla moda, al design, quindi con grandissimi nomi, da Burri a Guttuso, da Ceroli a Versace, da Ghirri a Sozzas, da Castiglioni a Scarpa e via di seguito. Quindi sicuramente uno spaccato per chi ama appunto queste arti, chiamiamole di costume, sicuramente molto ma molto importante. Bene, dopo aver così fatto un bagno di cultura, un bagno nel Novecento, beh, credo che una sosta gastronomica sia davvero voluta e cercata. E allora dove andiamo a Parma a mangiare? Bene, io vi consiglio la trattoria, io la chiamo trattoria con la T maiuscola, Cocchi. Bene, una trattoria che sicuramente ormai è sulla cresta dell'onda da tanti anni, è un punto di riferimento della cucina parmigiana, sicuramente tradizionale, ma qualche volta si trova anche qualche piatto così fatto dalla signora Cocchi, che è sicuramente una sua invenzione, e poi una grande carta dei vini. Allora sentiamo da Corrado Cocchi. Buongiorno Cocchi. Buongiorno Davide. Ci sentiamo da Cocchi. Per Pasqua e Pasquetta, Cocchi, abbiamo inventato qualcosa di particolare? Abbiamo un menù per l'occasione oppure continuiamo nella tradizione? Noi, Davide, noi siamo assolutamente coerenti con la tradizione, perché abbiamo anche delle famiglie che sono abituate a venire tutti gli anni il giorno di Pasqua e vogliono proprio assaporare i nostri piatti tradizionali. Quindi Cocchi, cosa ci sono? Ci sono già tutti i tavoli, già ogni Pasqua, che diciamo sono già destinati a delle famiglie parmigiane, così, perché so che succede anche alla domenica questo. Sì, ma assolutamente sì, proprio delle famiglie che vengono da anni, no, sono anche quelle che vengono solo per Pasqua, e quindi da anni, diciamo da decenni, vengono alla domenica, via. Senta, alla Cocchi, però lasci un tavolo, magari se qualcuno arriva e dice ho sentito il gastronauta, la trasmissione, e vengo a mangiare, magari gli lasci un posto, perché sennò tutto... qualche tavolo lo tengo sempre, di riserva. Bene, bene. Allora Cocchi, ci racconti un po' cosa mangiamo per Pasqua o per Pasquetta? Dunque, per Pasqua faremo senz'altro il menù tradizionale parmigiano, quindi un antipasto di culatello, annolino in brodo, poi proseguiamo con il carrello dei bolliti e il capretto che faremo in parte arrosto e in parte alla cacciatora. Com'è la cacciatora, Cocchi? Con il pomodoro? Più che la cacciatora, le erbe aromatiche, quindi passate in casseruola con tutte le sue erbe, olio extravergine, vino bianco secco, e questa è il piatto che fa mia moglie, insomma, via. E poi dopo si conclude con abbiamo una colomba artigianale molto buona che noi la elaboriamo con il nostro gelato, il gelato fatto da noi, che quello di crema, facciamo solo quello di crema, e quindi è un gelato, dicono che sia molto buono. Pertanto... Lo confermo. Senta, ma non mi dica che manca la zuppa inglese, però, perché sarei... No, beh, anche quella, certo. No, la zuppa inglese, quella non manca mai, perché per tutte le festività facciamo la zuppa inglese anche alla domenica, come dolce domenicale. Senta, il bollito, il carrello dei bolliti c'è sempre? Il carrello dei bolliti c'è sempre, però adesso da maggio poi non lo facciamo più, nel periodo estivo... Non lo facciamo più perché quando c'è il caldo, la stagione è bella, non invita a mangiare il bollito. Senta, Cocchi, riprende in autunno. Non c'è un piatto veramente della tradizione parmigiana, non c'è un piatto particolare, no? Il capretto alle erbe, bene, cioè i piatti, diciamo che i primi piatti rimangono quelli, quindi non c'è un qualcosa di speciale che viene fatto magari anche nelle case di Parma durante Pasqua. Ma guardi, io so che le bassine di Parma fanno tutti gli annolini in brodo e il capretto o l'agnello. Ho capito. Questa è quasi una tradizione per tutti. Ecco, gli annolini, mi importa specificare questo. Ci sono varie teorie, c'è stato anche chi ha depositato in Camera di Commercio appunto il disciplinare dell'annolino. Ci racconta come è fatto l'annolino? Dunque, l'annolino... Noi si fa lo stracotto, sì. Poi facciamo un ripieno con un 75-80% di formaggio parmigiano, un 20%-25% di pane grattugiato, uova, un po' di noce moscata. Il tutto viene bagnato con il sugo dello stracotto, quindi pochissima carne, quasi niente insomma, via di carne. Una sfoglia ovviamente fatta in casa, tirata col mattarello. Basta, ecco, è vero che c'è una misura particolare del diametro dell'anolino? Sì, come c'è il mattone di Parma, c'è anche la misura dell'anolino. Capito. Difficile da rispettare, però, immagino quanto se ne fanno tanti. Abbiamo quegli stampini apposta per tagliarli, che ci sono quelli piccoli che sono circa di 2 centimetri e qualcosa di diametro. Quindi diciamo che il disciplinare prevede questo. Bene, io la ringrazio, Cocchi. Allora dopo prego Cocchi, volevo dire qualcosa. Grazie a lei, Davide. Bene, dopo aver sentito Cocchi, così dopo un pranzo abbastanza pieno, sicuramente come ho detto prima andiamo a vedere 900 a Parma, Palazzo del Governatore, Galleria San Ludovico, Scuderia della Pillotta. Ecco, allora lasciamo Parma e andiamo al sud. Oggi siamo andati molto spesso al sud perché sicuramente le feste ormai sono più sentite al sud, non c'è dubbio su questo. E andiamo a Napoli perché Napoli è particolarmente sensibile alla Pasqua, e in questo momento diciamo Napoli è veramente invasa da una rassegna sul barocco, addirittura che non interessa Napoli ma interessa tutta la Campania, quindi sicuramente chi è appassionato di questo periodo periodo sicuramente può andare, di questo stile può andare a Napoli e in Campania. Ad esempio c'è Baroque, arte, scienza, fede e tecnologia nell'età contemporanea. Poi ha questo bellissimo museo Madre, che è un museo di arte contemporanea, Donna Regina di Napoli, che è aperto sia a Pasqua che a Peschetta. Si possono vedere dei grandi artisti contemporanei come La Capur, come Cattelan, come Hirst e via tanti altri. Quindi sicuramente Napoli in questo momento offre moltissimo dal punto di vista culturale, ma non solo. Napoli offre anche una città veramente da vedere. Ebbene, allora dove andare a mangiare? Dove andare a mangiare? Io vi porto al ristorante Sud a Quarto di Napoli e ho con me Marianna Vitale. Buongiorno Marianna. Sì, salve, buongiorno signor Paolini. Allora, per Pasqua e per Pasquetta fa un menù particolare? Sì, abbiamo realizzato un menù insomma per i due giorni, un menù molto tradizionale, anche perché insomma è davvero inutile spostarsi insomma su qualcosa di rivisitato, visto che i piatti che propone la tradizione pasquale campana sono effettivamente buoni, anzi buonissimi. Quindi... E io le do ragione. Meglio lasciarli così, insomma. Certo, quindi... certo. Ci dica allora. Partiamo con il tipico antipasto tradizionale pasquale, che comprende pancetta, fave, ricotta salata, un mini tortano, capocollo soppressata, caciocavallo podolico e carciofi fritti. Ecco, mi dice cos'è il tortano, come si differenzia dal casatiello? Tortano e casatiello in realtà hanno lo stesso impasto, l'unica differenza è che sul casatiello vengono poggiate prima della cottura delle uova e chiuse con una croce di impasto prima di, insomma, di infornarlo. Bene, vada pure avanti col menù. Proseguiamo con la famosissima minestra maritata, che è una minestra a base di carne di maiale e di verdure. Molte verdure, cicoria, scarola, broccoletti, cappuccia, torselle, e viene cotta, verdure che vengono cotte a parte, semplicemente sbollentate e aggiunte a questo brodo di molto grasso però molto saporito di carne di maiale. Continuiamo con gli spaghettoni con agnello, patate, cipollotte e pomodorini del Vesuvio e terminiamo con forse l'unico piatto insomma che si allontana leggermente dalla tradizione, che è un filetto di maialino su salsa d'aglio con crudo di carciofi e colatura d'alici. Non mi dica che non chiude con la pastiera però. Assolutamente sì, è d'obbligo. non c'è Pasqua insomma senza pastiere, quindi non possiamo concludere insomma in altro modo. Bene, mi sembra un pranzo molto gustoso e molto tradizionale, come vuole appunto la tradizione napoletana. Poi è noto ormai, l'ho detto tante volte, la pastiera è il mio dolce preferito che si può mangiare solamente pochi mesi all'anno se è fatta veramente appunto col grano e nel periodo pasquale. Poi sì, si mangia, ma secondo me non ha la fragranza, non ha il gusto del resto appunto di questo periodo particolare di Pasqua. Bene, io la ringrazio Marianna Vitale del ristorante Sud Quarto di Napoli. E io ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. E continuiamo questo viaggio tra arte, cultura e cibo. Bene, siamo stati in Sicilia, in Campania, siamo stati in Emilia-Romagna, insomma abbiamo un po' girato l'Italia andando a scovare laddove si possono combinare gusto, vista e udito, e quindi sicuramente il bello della vita, il bello e il buono. E ora continuiamo questo viaggio che può portare molti di voi durante Pasqua e Pasquetta anche a scoprire dei posti interessanti, intriganti, o di cibo o di arte e cultura. Bene, facciamo l'ultima tappa, siamo nell'ultima tappa e andiamo a Varese, andiamo a Villa Panza. Ebbene, prima andiamo a visitare diciamo le mostre o quello che c'è da vedere a Villa Panza, poi andremo a tavola. E allora per visitare appunto Villa Panza e la mostra che è in questo momento, si può visitare la mostra di Arte Povera, chiediamo ad Arna Bernardini di farci un po' da Virgilio. Buongiorno Bernardini. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Allora, ci fa visitare un po' Villa Panza velocemente, diciamo, perché dunque noi... è molto meglio, diciamo così, vista dal vero, quindi io posso solo così velocemente sintetizzare, quindi invito chi è libero tra Pasqua e Pasquetta, perché in realtà poi la mostra che è la mostra temporanea, che è aperta fino al 5 aprile ed è una mostra sull'arte povera, il cui titolo è Arte Povera, Energia e Metamorfosi dei Materiali, no? Che poi in realtà è un titolo complesso, in realtà una semplicità di proprio di adesione e di contatto che poi chi verrà a vedere la mostra potrà così notare. Allora, noi questa mostra l'abbiamo organizzata insieme al MART, al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, e voi qui a Villa Panza potrete vedere 20 installazioni sicuramente straordinarie, alcune anche con misure, con una fisicità anche molto, molto importante, che si succedono nelle varie stanze, nelle scuderie, che sono poi il luogo per le esposizioni temporanee, ma anche in una parte della villa e della collezione dove appunto sono installate queste opere. 9 sono gli artisti che sono appunto tra i più importanti esponenti del movimento dell'arte povera, che ricordiamo essere una delle straordinarie avanguardie del Novecento, sicuramente la più importante avanguardia europea del Novecento in senso assoluto. E l'arte povera che cos'è? In realtà è una tipologia d'arte il cui termine è stato coniato dal grande critico Germano Celant, che parlava proprio di arte povera per definire questo movimento un po' particolare che si ispirò nel 1967 al Teatro Povero di Grotowski, no? Io la fermo perché sennò portiamo via tutto lo spazio al ristorante. No, l'ultima cosa che le chiedo, oltre a visitare questa mostra che io ho visto e ne vale la pena, credo che valga la pena anche di visitare la villa, quindi la villa con la collezione permanente che è dentro la villa. Assolutamente, noi abbiamo una collezione bellissima d'arte minimale, d'arte ambientale, abbiamo 13 installazioni di Dan Flavin, che è uno degli artisti più straordinari dell'arte minimale internazionale, e poi l'arte ambientale con James Turrell e Robert Irwin già dalla metà degli anni 60, quindi Giuseppe Panza, che è stato uno dei più grandi collezionisti europei d'arte americana, invitò proprio questi artisti a fare delle installazioni qui appositamente per Villa Panza. Bene, grazie ad Anna Bernardini, e dopo aver visitato la mostra di Arte Povera e la villa, qui non c'è bisogno di fare chilometri perché entriamo sempre in Villa Panza nel ristorante Luce, e qui incontriamo un giovane chef di grandi potenzialità, che è Matteo Pisciotta. Buongiorno Matteo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, io per Pasqua e Pasquetta al ristorante Luce esiste un menù particolare? Beh, abbiamo fatto un menù di Pasqua ritagliato ad hoc ovviamente per la festa, per l'evento, proponiamo comunque il nostro menù alla carte con i vari menù degustazione che si articolano in 4 offerte diverse, e poi col giorno di Pasquetta, tempo permettendo, lanceremo questo formato picnic molto carino che abbiamo chiamato Panza all'aria, che consiste nel dare ai nostri clienti una stola da potersi prendere il primo sole primaverile. Speriamo che sia così. Speriamo che si possano godere il sole sui prati, e poi usciremo direttamente dal ristorante con questi takeaway molto carini, molto belli anche dal punto di vista del design, e verso le 2 usciranno i camerieri a servire il caffè direttamente sui prati. Ecco, mi parli un po' dei piatti del menù. I piatti del menù alla carta o i piatti del menù degustazione per Pasqua? Diciamo il menù degustazione per Pasqua. Allora, gli ingredienti sono quelli tipici del momento e tipici della Pasqua, quindi abbiamo optato per un menù abbastanza breve, quindi un 5 portate salate più un dessert, e partiamo con un baccalà marinato con zucchero di canna, servito con degli asparagi appena scottati e delle arance sanguinelle, un'insalatina di coniglio cotta piano piano, quindi a bassa temperatura, anche questa abbinata al carciofo, e al carciofo che si trova in crema e croccante, quindi fritto, facciamo dei ravioli con una ricotta al forno e la lattuga brasata, con un brodetto di crostacei, un risottino alle fave che sono buonissime e freschissime in questo periodo, con un pecorino fresco per mantecarlo, e chiudiamo con un cosciotto d'agnello, anche questo cotto in maniera lenta, quindi servito rosato con del timo e delle patate cipollotto, per chiudere poi con una bavarese al cioccolato fondente e un cremoso zafferano. Mi vien da dire, arte povera, cibo ricco. Sì, arte povera e cibo ricco. L'arte povera, ci allineiamo sull'arte povera con un menù apposta che segue il discorso dell'arte povera, quindi con la cucina povera, che è la cucina la cucina italiana che... E ce n'è qualche piatto di questo menù della cucina povera? Sì, l'arte povera può spaziare, ogni settimana cambia il menù dell'arte povera e spazia da una pasta e fagioli semplicissima, molto rustica, arriva una frittata con della barba dei frati, piuttosto che l'ovetto in cereghino servito con delle patate saltate, quindi piatti che sono proprio tipiche delle tavole dei contadini, diciamo, che sono quei piatti sicuramente molto... che fanno parte proprio della cucina povera, però anche sui quali uno chef con una materia prima veramente di poco conto dal punto di vista economico può sbizzarrirci e sicuramente stupire molto di più il cliente. È più facile stupire con un uovo che non con un'aragosta, no? Ecco, fammi capire, quindi all'arte, cioè alla mostra di arte povera c'è combinato un discorso di menù? Esatto, chi viene a visitare il museo, quindi... fa la visita della mostra e vuole integrare una sorta di esperienza culinaria legata al discorso dell'arte povera, c'è sempre un menù degustazione tarato apposta per il visitatore del museo. Le sinergie col museo sono molteplici, adesso abbiamo cominciato con l'arte povera, anche perché il ristorante è praticamente neonato in Villa Panza, e con le mostre future cercheremo sempre di star dietro anche all'aspetto di questa liaison tra cucina e arte, che viene particolarmente bene se ben fatta. Sarò curioso se ci sarà una mostra sul futurismo per vedere cosa succede, ma volevo chiederti, questa è la mia battuta, ma volevo chiederti questo: il giorno di Pasqua e Pasquetta, quindi i visitatori possono fare questa combinazione, diciamo la visita alla mostra di arte povera nonché questo menù, ho capito bene? Esattamente. Bene, io ringrazio Matteo Pisciotta del ristorante Luce all'interno di Villa Panza Varese, appunto, per averci raccontato il menù, e qui chiudiamo questo viaggio pasquale. Io vi auguro ancora una volta buona Pasqua e anche buona Pasquetta, e magari se accoglierete qualche suggerimento poi mi farete sapere se appunto è stato positivo o non lo è stato. Il vostro gastronauta vi saluta, vi dà appuntamento domani con il riposo del guerriero alle 12:15 e ogni giorno con la pillola che viene trasmessa alle 11:05 e alle 23:05 dello stesso giorno, da lunedì al venerdì. Quindi buona weekend a tutti, di nuovo buona Pasqua, buona Pasquetta e buon viaggio, perché sono sicuro che molti di voi si metteranno appunto alla guida per andare a raggiungere delle mete intriganti, e speriamo appunto che siano arte, cultura e cibo.